Stasera parleremo di un paese piccolo, fra le uniche colline un po' più alte che si trovano in Puglia, dal Gargano in giù, che guardandole dal mare sembrano davvero montagne. Di un paese fatto di salite e di discese, assolato d'estate e freddo d'inverno. Di una bambina di poco più di 14 anni, delle sue sorelle e dei suoi fratelli, di una cosa che si chiama omertà. Parleremo di una storia di cui ancora oggi, a esattamente 35 anni, i protagonisti portano i segni, le cicatrici. Parleremo di Palmina Martinelli. Il giorno 11 novembre Palmina sta per entrare in parrocchia dietro la chiesa delle Salette per la lezione di catechismo quando vede sulle scale Bruno, un ragazzino suo coetaneo che sta mettendo delle brutte voci in giro sul suo conto. Dice di essersela fatta dietro un casolare abbandonato in campagna. Ma Palmina certe cose non se le fa dire dietro. Affronta il suo compagno davanti a tutti, sui gradini della chiesa. È forte Palmina, è una tigre quando si tratta di difendere il suo onore dalle maldicenze. Ma proprio in quel momento arriva la brava gente, i bravi parenti, quelli che tutti vorremmo avere vicino. Il padre di Palmina con il cognato. Sì, il cognato. Quel brav'uomo di Cesare Ciaccia, quello che si occupa di prostituzione nella vita. Il Ciaccia la prende a schiaffi davanti a tutti e la fa entrare di peso in macchina. Alle 16 la lasciano a casa, almeno così loro dicono. È da sola Palmina in casa, indossa l'abito buono, l'abito della festa. Eppure le hanno intimato di non uscire, i bravi parenti. Indossa anche una collanina, così, per farsi più bella. Ma perché? Ma davvero possiamo pensare che si fosse vestita ed adornata per restarsene da sola? Passano solo 25 minuti ed Antonio, il fratello di Palmina, apre la porta. Sente odore di bruciato, Antonio. Entra in casa e... Al momento di entrare in casa, vedo il fumo che esce e Palmina ancora con le fiamme addosso. Sapete dov'è Palmina? È raggomitolata, con le fiamme che la cuociono viva, nell'angolo lontano del piatto doccia. Mentre bruciava, la bambina si era portata sotto la doccia, capite? Ma cazzo, cazzo, non c'era acqua quel giorno a Fasano. E mica solo quel giorno. Ma vi immaginate cosa deve essere bruciare vivi, immobili, senza poter far niente per spegnere le fiamme che vi entrano dappertutto? E sentire la carne, i capelli, il corpo che va a fuoco? Io non posso immaginarlo, e oltre qualunque umana comprensione. Antonio cerca di spegnere le fiamme, come può, con tutto l'impaccio e la paura che un ragazzino può provare in quei momenti, senza acqua, senza una cazzo di goccia di acqua. E come l'ha spenta? Con l'acqua del cesso? Colpendola con un giubbotto? Come si può spegnere una persona che va a fuoco da almeno 10 minuti? Lo sapete voi? L'unica cosa che mi disse fu quella che non ce la faceva più. E poi che disse che voleva morire, forse perché soffriva troppo. E poi mi disse che era stato Gianni ed Enrico. Palmina lascia una lettera in cucina dove dice che non ce la fa più, che papà mi chiude e Cesare mi stroppia, addio per sempre. Così si firma. Ma la lettera è una questione a sé, ci penseremo dopo a quella lettera. Alle 16:55 Antonio e Palmina arrivano al pronto soccorso di Fasano. C'è un giovanissimo chirurgo appena laureato che prende in custodia Palmina, il dottor Pasquale di Bari. Pensate, pensate alla coincidenza, il dottor di Bari fino a qualche tempo fa è stato il sindaco di Fasano e dopo 35 anni finalmente è stato il primo sindaco che ha deciso di fare intitolare una piazza a Palmina Martinelli. In culo alla Sacra Corona Unita, alla famiglia Ciaccia di Fasano e alla famiglia Loreddilo Corotondo. Bravo, dottor di Bari. Palmina arriva al pronto soccorso. Il referto medico parla di una ragazza perfettamente lucida che fa due nomi, Giovanni ed Enrico. Ustione di secondo e di terzo grado avanzato che ricoprono oltre il 70% della superficie corporea. Ustioni di secondo e di terzo grado avanzato che ricoprono oltre il 70% della superficie corporea. La ragazza è perfettamente lucida. Sono due cose queste che messe insieme mettono i brividi. Ustioni di secondo e di terzo grado avanzato che ricoprono oltre il 70% della superficie corporea, perfettamente lucida. Il giorno dopo, i carabinieri di Fasano si ricordano che a volte qualcuno si può anche arrestare e restano 4 persone, Enrico Bernardi, Giovanni Costantini, Oronzo Malagnino e Vito Felice Rosati, Ma Palmina ha fatto due nomi. E gli altri due invece affermano che il Bernardi e il Costantini erano con loro, lontani da casa Martinelli. Quindi o mente Palmina, che sta ancora bruciando e che mentre brucia inventa la sua storia, o mentono il Malannino e i Rosati. I carabinieri per il momento propendono per la seconda ipotesi e mandano tutti dentro. Il processo viene dirottato a Bari e il caso viene affidato al pubblico ministero Nicola Magrone, l'attuale sindaco di Modugno, in provincia di Bari. È un personaggio singolare, il dottor Magrone. Porta i capelli ricci, a boccoli sulle spalle. Ha una voce stridula, quasi fastidiosa a volte. E una forte cadenza dialettale. Il 20 novembre, quando il PM Magrone va a trovare Palmina, la bambina è ancora viva. Ed è ancora nel suo letto del policlinico di Bari che brucia. Sapete? Ho chiesto ad un medico, non è che se tu spegni le fiamme su un corpo il fuoco smette di agire. Le cellule continuano a bruciare, c'è ancora un calore che agisce sul tuo corpo, impercettibile agli occhi, ma fa male. E il corpo di Palmina brucia ancora. E il dolore lei lo sente, sono passati 9 giorni, pensiamoci per un attimo. Contiamoli nella mente questi 9 giorni, immaginiamo in silenzio la lunghezza di questi 9 giorni. Il primo contatto fra me e Palmina è spaventoso. Mi ritrovai di fronte a una figura non definibile come persona. Era un tronchetto, era annerito. Il viso lo vedevo appena, gli occhi li vedevo appena. Cercano di farla parlare, ma i tubi la soffocano, non riesce ad emettere suoni. Il professor Fiore gli toglie i tubi dal naso e dalla gola. Il PM Magrone raccoglie a fatica la testimonianza di Palmina. Si inizia, poi ci si deve fermare, poi si ricomincia di nuovo. Non ce la fa la bambina. Ma alla fine Magrone ha in mano nel verbale la testimonianza precisa di Palmina, un racconto dettagliato di quello che avvenne in quel pomeriggio a casa sua. Io ero nervosa per gli affari miei. Vi ricordate? Bruno che dice cose sul suo conto, il ciaccia che la schiaffeggia e il padre che la chiude in casa. Io ero nervosa per gli affari miei. Suonano alla porta e vado ad aprire. Entrano Giovanni ed Enrico, chiudono la porta e mi fanno scrivere che mi ero litigata con mio cognato. Poi mi chiudono nel bagno, mi tappano gli occhi, mi mettono lo spirito e mi infiammano. Enrico si è portato mia sorella con lui, la madre fa la vita a Martina, mi voleva portare lì, io non ci volevo andare, mi ha detto tu morirai con le mie mani, ho detto io ammazzami, ma io con te non ci vengo. Da quel giorno mi hanno fatto un sacco di rispetti, ora mi hanno fatto questo sfregio, se guarisco mi ammazzeranno. Mi hanno dato la varichina molto tempo fa, ho 15 anni. E della vita mi sono stancata. Vorrei soltanto morire fra le braccia di Cristo che mi aspetta. Il lavoro di un pubblico ministero normale sarebbe finito. L'ha raccolta la sua testimonianza. Ma Magrone non è un PM normale, è un burocrate dei tribunali e questa non è una storia comune. Palmina, un tronchetto annerito, ti strazia il cuore. Te lo spacca a metà. Scendendo per le scale del policlinico che Magrone si chiede, ma chi ci crederà a queste parole? Io stesso fra un mese mi chiederò, ma me le ha dette sul serio queste cose? Torna su, non può andarsene senza avere una traccia chiara, indelebile della testimonianza di Palmina, anche perché il professor Fiore, il primario della clinica, non dà speranze. Magrone sta già intervistando una bambina morta, ma proprio perché tutti e due sanno che Palmina non arriverà mai a testimoniare in un'aula di un tribunale, tentano il tutto e per tutto. Registrano sul nastro la voce e la testimonianza di un crocifisso che sta andando nelle braccia di un altro crocifisso. C'è un registratore. Adesso devi dire soltanto i nomi delle persone che ti hanno fatto male. Giovanni, Enrico. Vuoi dire per favore il cognome di queste persone? Costantino. L'altro? Non lo so. Queste persone cosa ti hanno fatto? Dillo piano piano. La sua agonia finisce il 2 dicembre. Quindi signori, tutto finito. Processo ovvio, scontato, testimonianza chiara. Oh, abbiamo la voce di Palmina, mica di una qualunque. La testimonianza è proprio del morto ammazzato. E quando ricapita una fortuna così alla magistratura? Sì, oh, Siamo in Italia, siamo al tribunale di Bari, mica a Bruxelles o a Helsinki. Ma che importanza può avere? Che cosa abbiamo? Una ragazzina senza arte né parte, una sventurata, una morta ammazzata che fa due nomi, una morta che parla. Ma che importanza può avere? Che fondamento può avere una testimonianza così? Ma che importa se Palmina bruciata viva da subito ha un'unica versione, senza contraddizioni, senza tentennamenti, è una figlia del popolo, è una pezzente, una morta di fame. E nelle aule di giustizia è vero che c'è scritto che la legge è uguale per tutti, ma col cazzo che la legge è uguale per tutti. Si apre, 2 anni dopo, sto processo di primo grado contro i 4 bravi ragazzi. Il PM interroga il Costantini, ma lui dice di essere in quei giorni a Mestre, in caserma, 1000 chilometri e più da Fasano. Fa il militare, vi ricordate? Oh, un alibi di ferro. Palmina si è sbagliata allora. Non era il Costantini, o lui mente. Ero alla caserma di Mess per fare militare, quindi non saprei proprio dirle per quale motivo. In fin dei conti, io che mio fratello non le abbiamo fatto nessun torto a Palmina. Non riesco ancora, tuttora, a capire perché abbia fatto i nostri nomi. E c'ha ragione, povero. In fin dei conti, quale torto potrebbero averle fatto? Ce lo chiediamo tutti, vero? Però spunta un tale Figus, commilitone di Costantini. Figus sarà sardo. Costantini non era in caserma in quei giorni, era scappato, era entrato una notte dopo 2 giorni saltando dalla finestra. Oh, dove sei stato? A casa. Addio alibi. Ma il giudice, un genio, continuava a dire che non c'era nessuno che in quel giorno, a quell'ora, aveva visto il Bernardi e il Costantini entrare a casa di Palmina. Magrone si sgola, muove le mani in modo strano, è un personaggio singolare il dottor Magrone. Ma come? Ce l'abbiamo un teste che l'ha visto entrare a casa di Palmina? È Palmina, io chiedo che si senta questo nastro! Noi non possiamo sentire in aula la voce di Palmin perché suggestionerebbe la giuria popolare. Ma qui ci siamo tutti, ma non c'è Palmina, ci siamo tutti, è un processo in contumacia, la voce di Palmina deve entrare nell'aula. Bravo, bravo dottor Macrone, bravo, perché non si può più fare questo processo senza Palmina, va bene? Bravo, dottor Magrone, bravo, bravo, questo è il senso. Mi dispiace moltissimo, non voglio suggestionare nessuno, ma pretendo che Palmina entri nell'aula. Il nastro, con la voce di Palmina, viene ascoltato. Letto l'articolo 479 del codice di procedura penale, assolve gli imputati Bernardi Enrico e Costantini Giovanni dal reato suscitato per insufficienza di prove. Ma come per insufficienza di prove? Ma cosa volevi di più? Giudice dei miei stivali, le fotografie, una confessione dal notaio, cosa cazzo volevi di più? La legge è uguale per tutti. No, Magrone, stai zitto, per favore. No, non dire ai giornalisti che secondo te se Palmina fosse stata figlia di un giudice le avrebbero creduto. No, non lo dire! Ecco, l'ha detto. È casinista, populista, disfattista. Eppure comunista, va.